Now boarding. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shibidoo. Essere timido, Davide. Per tornare giù da te, devo cambiare la voce. Le magie. No, le pazzie. Bentornati su Now Boarding Radio, su Radio San Donà sui 100.200. Questa volta cammino i registi, si ritornano Lorenzo e David, mi sottoscritto. Sì, un po' come i fratelli Vanzina siamo noi. Tornano. Il punto volgare di Now Boarding. No, sì, torniamo noi per questa puntata di approfondimento Focus On. E cosa abbiamo oggi, David? Presenteremo una grande tematica, il servizio internazionale. Una tematica troppo alta per le nostre possibilità, ma ci proviamo. E tra l'altro puntata speciale perché oggi abbiamo due ospiti, due argomenti, due presentatori, due studi anche, siamo in due studi diversi. Comunque, bando alle ciance, subito via al primo pezzo. E questo primo pezzo descrive proprio bene la puntata, devo dire. Io ero indeciso se scegliere una canzone dei Toto, però poi descriveva solo una parte. Vabbè, adesso capirete di cosa parliamo. Lino Gaetano, metà Africa, metà Europa. Buon ascolto. I riti tribali, di stregoni cardinali, di ministri triviali. Africa, terra nera, bruciata, è Africa, le bombe, il sangue, è Africa, una mamma che prega, un fermo di polizia, uno sparo, un ferito, è Africa. Ma per te che lavori e non ridi, per chi come te più non gioca, questa terra è ancora Europa. Europa, le lotte di classe Europa, la difesa del posto Europa. Per i tuoi interessi, per i figli e noi stessi, per chi c'è chi è disperso, Europa. Africa, il mare trasparente è Africa. Ma nella storia c'è ancora una svastica, un ricordo preciso, qualcuno è stato ucciso nel cielo, nel mare dell'Africa. Non possiamo che essere in Africa, giusto Lorenzo? Sì, per ora, poi come dice la canzone, insomma, ci spostiamo. Quindi vogliamo introdurre il primo ospite? Sì, vogliamo, e lo vuole anche lui secondo me. Giustamente. Ciao Mario. Ci senti, Mario? Sono in linea, sono on air. Ok, perfetto, sei on air. Allora, Mario, tu hai fondato un ONG in Mozambico. Questa ONG si occupa di sviluppo, comunicazione e marketing. Tu la stai ancora seguendo oppure? Sì, dall'esterno, sì, dall'Italia. Ok, diciamo. Stanno lavorando, diciamo, i ragazzi che giustamente se ne devono occupare direttamente. Certo, certo. Quindi, bene, spiegaci un attimo Perché di questa idea? Perché allora, questa ONG è nata nel 2001, si chiama l'Academy of the African Communication. Diciamo che l'idea è nata nel 2001, in realtà poi è partita nel 2005. Ah, ok, quindi ci sono stati 4 anni di gestazione. Sì, esatto. Ok, come mai questa idea? Ma l'idea nasce da un viaggio che io ho fatto per una ONG genovese per la quale mi occupavo della comunicazione. Sono andato per loro a fare una serie di video, una serie di immagini che dovevano in qualche modo riunire il lavoro loro di una ventina d'anni in Mozambico, e in questo giro, che è stato particolarmente, come dire, bruciante in qualche modo anche della mia testa, ho capito quale poteva essere il mio legame con questo continente, con questa realtà, con questo mondo, e soprattutto ho capito che c'erano delle contraddizioni terrificanti che in parte si poteva contribuire a modificare, cioè a modificare per il meglio, ovviamente, soprattutto rispetto ai giovani. Io vi ho visto una realtà veramente fiorita da questo punto di vista, cioè giovani che avevano capacità creative di base enormi, potenzialità, voglia, eccetera. E questo mi ha fatto, al rientro in aereo dal Mozambico, ho disegnato il logo dell'Academy of the African Communication, proprio per dargli una forma, no? Quindi questo primo viaggio quando l'hai fatto, più o meno? Nel 2001. Perfetto, quindi diciamo questo viaggio ha gettato le basi per la tua ONG. Tu hai trovato terreno fertile là, alla fine poi magari diciamo il contatto con la terra ti ha anche, come dire, lasciato qualche emozione particolare, forse. Sì, direi che soprattutto emozione, perché il terreno fertile non, anzi, devo dire che ho trovato più persone mi guardavano come un pazzo che terreno fertile, nel senso che okay. A chiunque dicessi questa cosa, poi anche giustamente, poi alla fine si è rivelato abbastanza corretta questa valutazione. Poi dice, in un posto dove si muore, dove c'è il 40% della popolazione attiva che muore di AIDS, dove, cioè, non che muore, ma che comunque, diciamo, che è affetta da questa roba orrenda, dove si muore ancora per la malaria, ma si muore ancora parecchio per la malaria, come dire, la malaria si cura con $50, meno, anche con $25 la malaria si cura, quindi non si dovrebbe morire per una cosa che si può curare con $25, certo. E invece si muore, e come? Per mancanza di prevenzione, per tutta una serie di motivi che adesso qua ci vorrebbero 18 trasmissioni. No, infatti, purtroppo abbiamo una finestra di tempo abbastanza limitata. Infatti, però con tutto questo, dice, ma tu che ti metti a portare il marketing e la comunicazione? Intanto, vabbè, se fossi stato un infermiere probabilmente avrei portato tutte le mie capacità paramediche. Non ho fatto per 40 anni marketing con questo brutto mestieraccio, e quindi ho detto, anche in considerazione del fatto che però là c'era già una certa un certo interesse forte anche da parte governativa di tutta la parte, diciamo, legata alla rete, no? Sì, quindi... e infatti questa è la cosa strana, perché uno dice vado in Africa perché faccio il medico, l'ingegnere o qualcosa del genere, invece tu hai portato forse una cosa, diciamo, prettamente occidentale, nel senso il marketing. Almeno sì, nell'immaginario, no, comune è una cosa che... Esatto, un'accezione comune è così, in realtà non è così, perché la cosa che ha un gap più ristretto rispetto a tutto il resto, dalla cultura, diciamo, intesa in termini occidentali, appunto alla medicina, l'arte, la cosa... Il gap più piccolo ce l'ha proprio quella parte lì, nel senso che essendo legata alle macchine, essendo legata alla rete, essendo legata alla modernità, ovviamente i giovani mozambicani sono esattamente come i giovani europei, i giovani africani, abbiamo visto poi anche nella situazione, diciamo, dei paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo, dei paesi africani e arabi che si affacciano sul Mediterraneo, abbiamo visto che... Che anche loro reagiscono e che vogliono una libertà personale. Tutta la rivoluzione parte da Facebook e da Twitter, quindi certo, vuol dire che insomma che ci, quello ci siamo. Okay. E lì... Quindi facciamo anche un salto di 4 anni e diciamo che nel 2005 questa attività ha il suo inizio in Mozambico, a Maputo precisamente, giusto? Esatto. Ed è un progetto che viene riconosciuto dalle Nazioni Unite, dall'UNESCO e dal governo del Mozambico. E esatto. Come avete fatto a ottenere, diciamo, questa visibilità e come sono stati i primi tempi a livello operativo? Se avete incontrato problemi nella gestione delle strutture e tutto quanto? Beh, i problemi sono milioni, perché è inutile neanche fare l'elenco dei problemi. Il problema è che quando si vuole ottenere una cosa, tendenzialmente ci si riesce. Quando l'idea di base si aggancia a progetti internazionali, e qui torniamo, se vuoi, un po' al tema della trasmissione. Il mio progetto era stato disegnato in maniera da me, che tra l'altro non ero neanche molto esperto di queste cose, era stato disegnato sugli obiettivi del millennio, e però la precisione sull'ottavo obiettivo del millennio, che è quello che prevede lo sviluppo, cioè prevede di dare la canna e non il pesce, come si dice, no? Mentre invece diciamo che l'80% delle risorse vengono destinate a dare il pesce, mentre dovrebbero essere più destinate a dare la canna, cioè a insegnare a pescare piuttosto che a dare il pesce che poi marcisce. Certo, secondo quel famoso proverbio cinese che io mi ricordo perché me lo diceva mia nonna, che devi insegnare a pescare e non dare il pesce. Era cinese, mi sembra. Sì, penso di sì, ma che sia quel che sia, la realtà è questa. Il problema è che è molto più comodo dare il pesce, anche perché spesso è pesce avanzato, è pesce che non venderemo da nessuna parte mentre riusciamo a venderlo. Cioè, in Africa con questo tipo di politica abbiamo fatto noi Occidente soprattutto dei danni incredibili, e adesso comincia anche la Cina a fare danni da quelle parti, quindi ecco, insomma. Quali sono questi danni che tu hai riscontrato da parte della nostra cultura, della nostra civiltà, delle nostre compagnie internazionali magari? Ma guarda, io ho preso denaro dall'UNESCO, ho preso denaro cioè voglio dire, sono stato finanziato da realtà come UN Volunteer e UNESCO, che sono organizzazioni delle Nazioni Unite, sono agenzie delle Nazioni Unite, e devo dire che queste agenzie fanno anche un lavoro estremamente meritorio, a partire da UNICEF per arrivare a UNIFEM e così via. Però sono comunque tutte orientate ad una logica di dare per dare, e quindi non riescono a lavorare come si dovrebbe con, ma lavorano per. Ho capito. Anche se poi in realtà... Diciamo sono molto burocratiche magari, intendi sono dire? Sono molto burocratiche, sono molto sovrastrutturate, sono, come dire, molto politicizzate, perché molto spesso sono longa mano dei vari governi, che poi gli Stati Uniti un po' da un po' lei. Adesso per esempio gli Stati Uniti, io sono una vittima degli Stati Uniti in qualche modo, perché oddio, gli Stati Uniti hanno levato buona parte dei finanziamenti all'UNESCO, che l'ha dovuti levare poi anche a molti come me. E diciamo i motivi di questo esproprio dei finanziamenti dove stanno? Ma i motivi sono legati a certi comportamenti politici che non stanno, cioè voglio dire, gli Stati Uniti vorrebbero guidare le Nazioni Unite e le sue agenzie, diciamo non solo al 70% ma al 95%, e questo probabilmente, anzi sicuramente non funziona. Ogni tanto ci sono degli impuntamenti, ed è chiaro che gli atteggiamenti di riferimento sono gli embargos, no? Sono, ti levo i finanziamenti, insomma. Sì, quindi abbastanza dittatoriali, ecco. Ma sì, devo dire che infatti io spesso parlo non solo relativamente all'Africa, ma anche relativamente ai paesi occidentali. secondo me noi siamo in una dittatura democratica, insomma. Anche se può sembrare una contraddizione in termini, però la democrazia si esprime veramente molto. Pensiamo che negli Stati Uniti in realtà vanno a votare non so se il 30 o il 40% degli abitanti, certo, cioè, la certo. democrazia già lì scricchiola un po', ecco. Sì, è sempre un termine che ritorna sempre più spesso, questo di dittatura democratica, nel senso una democrazia che non riesce ad essere efficiente e che alla fine i frutti di queste controversie nel mondo occidentale sono risentite anche, diciamo, in quei posti, immagino, no? Assolutamente sì, okay. Soprattutto. E va bene, allora continuiamo dopo, David, ad approfondire questo argomento, ma adesso andiamo con un pezzo che io ho scelto con una certa umiltà, che è di un gruppo africano, un po' reg, un po' africano, diciamo. Sono i Gorwane, mi scusi la clientela, diciamo, africana se pronuncerò male la parola, ma il pezzo si intitola Majuru Jenta. Eccoci, tornati in trasmissione. Bene, allora Mario, cominciamo, diciamo, ad addentrarci nella discussione riguardante l'organizzazione, appunto, di questa tua iniziativa. I primi tempi sono stati difficili, sono stati parecchi problemi probabilmente, però come avete fatto a organizzare le strutture didattiche, il personale? È venuta altra gente a parte te dall'Italia a seguire l'iniziativa? Beh, direi di no. Ho cercato di coinvolgere persone, mi hanno aiutato per la raccolta fondi in Italia, ma che poi tra l'altro era un momento di crisi, quindi con grandi difficoltà, però no, direi che sono andato da solo e là mi sono, anche perché poi l'obiettivo non era portare degli italiani, era portare dentro il progetto degli africani, insomma, anche perché il progetto è loro, non è, oggi sono tutti loro, cioè non c'è nessuno, c'è stato qualcuno dentro una ONG che si chiama Pulima, che ci ha aiutato molto, è una ONG gestita da un italiano che però ormai è mozambicano a tutti gli effetti, insomma, lì da 50 anni. Quindi, direi che, ecco, la parte organizzativa è stata tutta strutturata in collaborazione con l'università statale, e che aveva intenzione in qualche modo di creare dei corsi di formazione legati alla parte informatica comunicazionale, diciamo, quindi tutta la parte legata alla rete, legata alle comunicazioni e alla comunicazione insieme. E poi c'era una, diciamo, una, quella che era una scuola d'arte inizialmente, dove si insegnava a disegnare piuttosto che è diventata invece, che si è trasformata in una sorta di, come si chiama, scienze della comunicazione, diciamo, no? Cioè la facoltà di scienze della comunicazione che si è aperta con il nostro contributo. Nostro intendo non solo mio, perché poi molti docenti italiani hanno mandato materiale dalla Cattolica, dallo IULM, che io ho raspato, no? Raschiato tutti i barili possibili e immaginabili per avere materiale didattico, poi lo abbiamo tradotto in portoghese e lo abbiamo, alcuno dall'inglese, altri dall'italiano, lo abbiamo fatto diventare, diciamo, un materiale di studio per... esattamente, materiale didattico, eccetera. Dopodiché, al di là di questo appoggio che abbiamo dato forte, poi abbiamo creato i laboratori di ricerca permanente, che erano, diciamo, praticamente in quattro città del Mozambico delle piccole agenzie di pubblicità, diciamo, no? Delle micro agenzie di pubblicità, dove i ragazzi che si formavano nei corsi dell'università, ma anche liberamente, in maniera un po' autonoma, dire, poco burocratica, potevano partecipare e quindi imparare a usare, a filmare, imparare a mixare, imparare a fare, per esempio hanno partecipato, a proposito di radio, molte radio comunitarie. Ed erano sicuramente meglio di noi, secondo me. Ma erano sicuramente meglio di noi. No, ma comunque sono molto bravi, ecco, meglio no, ma uguale, ecco, voglio dire, con delle ottime capacità intellettuali e tecniche. Quindi tenete conto di una cosa che forse sfugge alla maggioranza. L'Italia ha vinto un premio a Cannes per uno spot nel 2000, aspetta, no, nell'84, con le pastiglie Valda, non so se ve lo ricordate. Questo è il primo premio. Nell'84 il mio embrione viaggiava nell'aereo. Lo so, capisco. Pure il mio peso. Però ha vinto il primo premio a Cannes, il primo leone d'oro, come diavolo si chiama, molti, molti, molti anni dopo aver cominciato a fare quel mestiere lì. Sì, la Palma d'Oro, mi sa. Nel 2000 un'agenzia mozambicana ha vinto a Cannes. Ah. Non so se mi... che si chiama Golo. Ho capito, quindi per insomma... dire, non è che sono proprio... perché noi abbiamo quest'idea, perché ci mandano tutti quest'idea, no? Dei bambini con il moccio, delle mosche, delle cose. C'è tutto questo, ma c'è anche dell'altro, certo, c'è anche certo. della qualità. Quindi diciamo che in Europa arriva solo una parte di quello che veramente succede, sì, in quei ma posti. Certo, perché chi manda le immagini, la comunicazione, l'informazione ha tutto l'interesse, perché sta rastrellando denaro, ha tutto l'interesse a farci piangere per farci aprire il portafoglio. Esatto, certamente. Non quindi so sì, non è proprio, diciamo, genuina l'immagine che ci arriva da questi mass media. No, anche perché non è quasi mai genuina l'immagine dei mass media, voi lo sapete. Tu che ci lavori lo sai bene, voglio dire. sì, no, ma infatti non... quindi... Vabbè, comunque fammi tu delle domande, perché sennò io quando parto... Certo, non... certo. No, vabbè, noi eravamo interessati, ti abbiamo lasciato libero di viaggiare nei tuoi ricordi. Comunque, no, volevo chiederti una cosa, un'immagine di quel viaggio che hai fatto, che è durato 2 anni, mi sembra. Sì. Un'immagine di un'esperienza, un aneddoto che ti è rimasto... 5 anni. 5 anni addirittura. Sì, un aneddoto che ti è rimasto, diciamo, di quel viaggio, qualcosa che tu ti porti, diciamo, come ricordo di quell'incontro con quella comunità. Ma quando io andai la prima volta dal rettore magnifico Brasau Masula, tra l'altro un uomo del governo in qualche modo, anche perché poi lì sono tutti uomini del governo, sono del governo o non sono, e che era molto affascinato, devo dire, dal nostro progetto, e che ci ha anche molto aiutato e di cui devo parlare anche molto bene. Però quando io dissi, ma però anche voi perché non cacciate qualche soldo? Perché bene o male, insomma, vi stiamo dando un servizio incredibile. Ma loro, da buoni rastrellatori professionisti, lui mi disse, guarda che qui o sei Bill Gates o non sei nessuno. Certo. Quindi qui si viene solo per portare, non si prende, nessuno prende niente. Questo è stato la prima torta in faccia, diciamo. Se può essere utile come aneddoto per capire un po' come funziona, certo. La certo. situazione. Vogliamo chiederti, Mario, se hai alcuni contatti da presentare ai nostri ascoltatori riguardanti magari l'ONG oppure comunque quei posti, diciamo. Beh, guarda, no, io direi l'unico contatto che può fare da riferimento è uno, la ONG Culima. Sì, quella ma, che di cui parlavi prima, giusto? Esatto, che basta che si cerchi su Google Culima Maputo con la K, Culima, si trova, e quello è un buon punto di riferimento. Poi un altro punto di riferimento è Veziano Armandi, che è il fondatore di Mani Unite Mozambico, che è una ONG che si occupa di aiuto a distanza, che gestisce comunità di bambini dentro, all'interno delle comunità naturali, come dire, non dentro orfanotrofi o roba del genere, no? Quindi aiuta proprio direttamente i bambini lì dove hanno bisogno di essere aiutati, e questo è un altro punto di riferimento. Perfetto. Mentre il nostro punto di riferimento come Academy è come si chiama, Job Mutombene, che è adesso segretario generale. Io continuo a rimanere presidente perché mi lasciano, come dire, per simpatia, poi continuo a dare delle linee, delle cose, eccetera. Sei la guida spirituale. Esatto, bravo. Però ormai sono molto, molto, molto fuori dal punto di vista operativo. E Job Mutombene lo trovate anche su Facebook senza difficoltà. Perfetto, grazie Mario. Il tempo vola, quindi vogliamo introdurre. Voliamo. Scusaci. Ci mancherebbe, no, anzi, mi scuso io perché talvolta sono un po'. Nessun problema. No, comunque Mario rimane in trasmissione perché adesso avremo un ospite che invece parlerà del lato europeo del volontariato, quindi potrà anche interessarti, insomma. Certo che sì, grazie. Ok. Non lo pronuncerò in tedesco, bensì in italiano. Gli uomini sono porzi degli Erze. Hallo mein Schatz, ich liebe dich, du bist die einzige für mich. Die anderen find ich alle doof, deswegen mach ich dir den Hof. Du bist so anders, ganz speziell, ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin, weil ich so verliebt. Bentornati su Nowboarding. Ora presenteremo il secondo ospite. Ciao Anna. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Vabbè, insomma, dove siamo, David? Lo diciamo? Dobbiamo dirlo. No, siamo manteniamo il segreto. Allora, Anna è stata a beep. Quindi. No, dai, vogliamo dirlo. Torniamo di nuovamente a Berlino. E che palle. Effettivamente è un po'. Cioè, ma il tema, diciamo, è diverso dagli altri. Vabbè, ma parliamo di cose diverse. Parliamo di cose diverse. Precedenti, insomma. Servizio internazionale, guardiamo questa facciata europea. Ecco, qual è stata la tua esperienza, cara Anna? Dunque, io sono stata volontaria europea, significa che ho fatto il servizio volontario europeo, una sorta di servizio civile solo finanziato dalla Commissione europea, e che permette ai giovani tra i 18 e i 30 anni di vivere un'esperienza all'estero dai 6 ai 12 mesi. Ed essere appunto coperti dalle spese di alloggio, di vitto e spese extra, oltre ovviamente a lavorare in un altro paese e a imparare la lingua del paese ospite. E quindi tu sei stata, hai fatto quella da 12 mesi, giusto? Esatto. Ok. Naturalmente. Sei stata costretta a imparare prima la lingua e poi partire, oppure ti è andata la possibilità di... No, io sono arrivata totalmente a digiuno di tedesco, sapevo solo dire il mio nome e la mia età, e l'ho imparato lì. Adesso non è che sia proprio ad alti livelli, però sì, una poi... conversazione la riesco a sostenere. Sì, dicono che insomma il tedesco non sia proprio questa facilità di lingua da imparare. No, non è facile, perché non c'è alcun contatto con la lingua italiana. Le parole sono completamente diverse e ci sono parole lunghissime. Cioè, per dire abat-jour, loro dicono lampada da tavolo da notte, tutto attaccato. Ok. Quindi sono proprio concettualmente, una lingua concettualmente diversa. Cioè, con una parola descrivono anche un'azione, tipo? Sì, ma poi c'è un'azione diversa tra mettere su un tavolo in orizzontale e mettere su un tavolo in verticale. Addirittura. Sì, sì, sì. Però è una lingua molto affascinante. E metterlo in obliquo, c'è un'altra parola ancora? Non l'hanno ancora inventata, ma credo ci sia. A breve. Ecco, quello che vogliamo chiederti è cosa ti hanno proposto in questi 12 mesi. Quali sono state le attività, diciamo, di servizio? Cosa hai fatto, cosa non hai fatto? Dunque, io avevo due mansioni, perché lavoravo a Berlino in un ostello, mettiamola così, in un centro giovanile, e aiutavo in ufficio. Questa come prima mansione. Come seconda mansione ero accompagnatrice per i campi scuola. Questa organizzazione organizzava campi scuola per i ragazzi e i bambini tedeschi di tutta la Germania, e il mio compito era quello di essere accompagnatrice, di fare da animatrice a questi bambini. Quindi è stato anche complesso all'inizio avere a che fare con bambini con cui non potevo comunicare, perché dopo 4 mesi le mie capacità linguistiche non erano adeguate alla situazione. Come ti arrangiavi, diciamo, a dirgli cosa fare, farli stare buoni? Diciamo che il mio sguardo era molto eloquente a volte. Ti mettevi anche una lampada davanti da sotto, tipo per fare la cattiva. Il gioco del mimo. Diciamo che è stato molto difficile, perché soprattutto con gli adolescenti rischi che si prendano gioco di te, e oltretutto in tedesco, quindi oltretutto in tedesco, sì, che ti chiedono dei permessi che tu non capisci, e magari dici di sì perché credi di aver capito una cosa, invece loro hanno giocato sulle parole e quindi gli hai dato un permesso che non potevi assolutamente concedere loro. Oppure quando dovevi rimarcare la tua autorità, quando si doveva arrabbiare, arrabbiarsi e dire le cose sbagliate, sbagliare grammatica, insomma, è dura, perché ti prendono proprio in giro, ti scoppiano a ridere in faccia. E... diciamo, è una debolezza che rischiano di sfruttare. Ecco. Sì. E comunque tu, con questo volontariato europeo, diciamo, eri insieme a persone, immagino, un po' da tutte le parti dell'Europa, no? Più o meno. Sì, come volontaria, tutti i volontari devono nel paese ospite prendere parte a due seminari, un seminario di arrivo e un seminario di metà termine, in cui conoscono altri volontari da tutta Europa. E è una grande occasione per vivere proprio l'interculturalità, davvero. Mm-hmm. Sì, voi tra di voi parlavate in inglese, quindi... In inglese almeno, il almeno primo quello. Seminario, e poi in tedesco il secondo, mm-hmm. perché insomma si era già lì da un po' di tempo. Ma come si fa ad entrare in questo volontariato internazionale? È semplice, tu fai domanda e ti pigliano subito, oppure c'è qualche step un po' strano? C'è qualche step, e la mia storia è alquanto complicata, perché sono stata un'eccezione alla regola. Io sono partita dopo 1 anno e mezzo che avevo fatto domande. In realtà c'è gente che parte dopo 2 mesi, dopo 3 mesi che ha fatto domande. Quindi per te è stata un po', diciamo, travagliata? Sì, decisamente. Ma di solito in base a cosa ti scelgono? Allora, il procedimento è il seguente. Diciamo, ci sono 3 attori principali: l'aspirante volontario, un'organizzazione di invio da ricercare nel paese di provenienza, quindi nel nostro caso in Italia, e un'organizzazione ospite da cercare in Europa. Si fa domanda all'organizzazione di invio, che fa da tramite tra il volontario e, meglio, tra l'aspirante volontario e l'organizzazione ospite, cui bisogna inviare curriculum e lettera di motivazione in inglese o eventualmente in altre lingue conosciute. L'organizzazione ospite fa una selezione dei vari candidati. Se sei il fortunato che insomma, vieni scelto, l'organizzazione ospite deve chiedere all'Agenzia Nazionale i finanziamenti. L'Agenzia Nazionale chiede i finanziamenti e, qualora il progetto venga approvato, si parte. Ok, quindi diciamo è una lunga, lunga strada. Comunque, esatto. Dai, interrompiamo per una traccia. Diciamo che queste tracce le hai scelte te. Quella di prima si chiamava Gli uomini sono porci, adesso ce la pronunci in tedesco. Männer sind Schweine. Che bello. No, allora, io non, naturalmente non concordo a pieno con certo. questa canzone, però è stata molto utile come canzone per imparare il tedesco. Sì, vabbè, è un caso il titolo, insomma. Comunque, sì. Invece come no, quarta... Cerchiamo da uomini, tra l'altro. Quindi. Esatto, invece come quarta hai scelto gli Offrin con How Come. Dici, perché hai scelto questa? Perché hai scelto quella prima, intanto? Così recuperiamo... Allora, la prima perché per imparare il tedesco i miei colleghi mi hanno consigliato questo gruppo di Ärzte, che sono, significa i medici, i dottori, e mi hanno consigliato questo gruppo perché è un gruppo degli anni Ottanta, molto, forse anche trash, non me ne vogliano, però molto conosciuto e molto amato, cioè c'è gente che ancora va ai, suoi, ai loro concerti. E invece questo, questo pezzo How Come degli Offrin, come mai? Perché è stato il mio primo concerto a Berlino, sono stata invitata a questo concerto da un amico e quindi insomma molto, da qui è iniziata la mia movida. Il primo concerto non si scorda mai, esatto, insomma. La quindi mia andiamo berlinese è iniziata da qui. Quindi andiamo con gli Offrin, che sono tra l'altro israeliani e a me piacciono, con How Come. Degli assaggi oggi i nostri pezzi, perché abbiamo talmente tante cose da dire che insomma ci tocca un po' correre. Comunque Anna, allora tu comunque in questa attività non sei stata solo a Berlino, hai fatto un sacco di viaggi. Oh sì. Sei stata un po' ovunque, delle, hai fatto delle route, delle, delle missioni, diciamo. Raccontaci un po' come andavano, dove sei stata, i posti più interessanti. Allora, ho fatto tre campi principali, diciamo, i più interessanti. Il primo campo è stato con una classe di ragazzi con problemi psicologici, traumi e disabilità. E abbiamo fatto una settimana in zattera. Abbiamo percorso un canale del fiume che attraversa Berlino, della Sprea, e abbiamo costruito le zattere e ogni giorno facevamo 5 chilometri, come si dice? Remando. Ecco, mi è inventata si perdono i termini. Remando. E avevamo un campo mobile, quindi ci portavamo dietro le tende, il cibo, e ogni giorno piantavamo la tenda in un posto diverso. Quindi non contenta, viaggiavi anche dentro Berlino, oltre ad aver viaggiato per Berlino. Che bella dinamica. Il secondo ho fatto un 12 giorni in montagna, siamo partiti dal confine austro-tedesco e siamo arrivati a Bressanone in Italia. Sono stati 12 giorni con lo zaino in spalla per i monti, non nuovo per me questa avventura, però è stata nuova a entrare in contatto con ragazzi tedeschi, che tra l'altro era la prima volta che facevano un'esperienza del genere, quindi oltre alla fatica che ho provato io, che non è stata poca, stato anche dover sorreggere le persone che... L'entusiasmo. Facciamo una domanda alla Marzullo, tipo, ma ti hai imparato di più dai bambini o dai tuoi colleghi da questa esperienza? Scusa. È una domanda stupida, cioè proprio... Devo rispondere? No, non devi rispondere. Perfetto, andiamo avanti. Anche perché la risposta potrebbe essere ancora più stupida. Quindi andiamo avanti, invece... Dulcis in fundo ho fatto anche l'accompagnatrice in una gita. Siamo andati a fare windsurf sul Lago Maggiore, Diciamo, hai capito il volontariato internazionale? Come pensare alle più belle attività? Ero disperata, devo dire, veramente. Sì, veramente distrutta dal lavoro e quindi sei andata a fare windsurf, insomma. Ma passo 10 anni, 15 di vita. È stato duro imparare a fare windsurf, abbronzarsi e non scottarsi soprattutto. Questa è stata la parte più quindi difficile. Quindi attenti persone che volete fare volontariato europeo, che qua si sgobba, Windsurf, gite in montagna, zattere. Va bene, comunque a parte questo, cosa ti è rimasto alla fine di questa esperienza che magari ti porterai anche per future esperienze lavorative, no? Perché potrebbe servire anche a questo. Sì, ho già contatti con la mia associazione ospite, che adesso diventerà l'agenzia per cui lavoro. E, quindi è una storia a lieto fine questa. Sì, assolutamente sì. E cosa mi è rimasto? Mi è rimasta nel cuore una città meravigliosa, ma ne avete già parlato, quindi sì, non soffermiamoci troppo sulla città. Sì, vabbè, insomma, quindi ti è rimasta nel cuore questa città e anche, diciamo, questa esperienza, insomma. E ti ha anche aiutato Sono molto cresciuta quest'anno. A trovare il lavoro. Mm. Bene, noi siamo quasi in chiusura. David, vogliamo dare un po' di contatti? Vogliamo dare i contatti. Ricordiamo che siamo su Radio Sandonà, sui 102.200, il nostro sito www.radiosandona.it senza accento, il blog www.nowboardingradio.wordpress.com, la nostra pagina Facebook Nowboarding Radio e in ultima la mail nowboardingradio@gmail.com. Ecco, quindi vogliamo lasciare i contatti, Anna. Sì, della tua esperienza. Consiglierei ai ragazzi interessati di visitare il sito www.serviziovolontarioeuropeo.it. Lì troverete tutte le informazioni necessarie per partire, con tanto di lista di associazioni ospiti in Europa e di associazioni di invio qui in Italia. Bene, Mario, sei ancora in linea anche tu? Sono ancora in linea, sì. Bene, allora facciamo un saluto di gruppo, diciamo come foto di fine anno. Allora salutatevi Anna e Mario, dai. Ciao Mario, è stato un piacere. È stato un piacere non conoscervi. Bene, vi ringraziamo tanto, siamo riusciti a dire pochissime cose, però speriamo di aver interessato, diciamo, il nostro pubblico. E ci vediamo la prossima volta, sempre su Radio Sandonà. Buon ascolto con l'ultima traccia che ha scelto sempre Anna. Che traccia è, Anna? È Viaggi e Miraggi di Francesco De Gregori. Come mai? Come mai? Perché sono sempre unterwegs, come si dice in tedesco, sono sempre in giro, per cui c'è questa parte della canzone che dice dietro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare, perché fra 10 giorni me ne vado in Brasile. Ah, va bene. Quindi... sempre col volontariato. Oh, quindi. Francesco, che è in regia, prendi appunti, che abbiamo un nuovo ospite anche per il Brasile, insomma. Boa viagem! Dice Mario. Bene, ragazzi, arrivederci a tutti e andiamo quindi con Francesco De Gregori, Viaggi e Miraggi. Ciao a tutti. Curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terroni settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E fra un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire. E questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù. E non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò per ala che il tempo potrebbe passare. E questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare. Ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, o a Milano con i suoi sarti ed i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi svincoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.